quelle nuove parole il mio amore le intendeva e se lo persuadevano che il domani non sarebbe stato diverso da tutti gli altri, che il sentimento che Gilbert provava per me, ormai troppo radicato per poter cambiare, era l'indifferenza, che nella mia amicizia con Gilbert ero io il solo ad amare. «È vero», rispondeva il mio amore, «non c'è più niente da fare di questa amicizia, non cambierà». Allora, già dall'indomani, o nell'attesa di una festa, se ce n'era qualcuna imminente, di un compleanno, del nuovo anno magari, di uno di quei giorni che non sono uguali agli altri, in cui il tempo ricomincia da capo, rifiutando l'eredità del passato, non accettando il retaggio delle sue malinconie, chiedevo a Gilbert di rinunciare alla nostra vecchia amicizia e di gettare le basi di un'amicizia nuova. Tenevo sempre a portata di mano una mappa di Parigi che, poiché vi si poteva distinguere la strada in cui abitavano gli Swann, mi sembrava contenere un tesoro. E per mio diletto, e anche per una sorta di fedeltà cavalleresca, citavo il nome di quella strada a qualsiasi proposito, tanto che mio padre, all'oscuro del mio amore, come lo erano la mamma e la nonna, mi chiedeva «Ma perché parli sempre di quella strada?» «Non ha niente di straordinario. Sì, è molto piacevole abitarci perché è a due passi dal Bois, ma ce ne saranno altre 10 nella stessa posizione». Io facevo di tutto, in ogni occasione, perché i miei genitori pronunciassero il nome di Swann. Io certo me lo ripetevo mentalmente, senza posa, ma avevo bisogno anche di sentirne la sonorità deliziosa, di far risuonare quella musica, la cui lettura muta non mi bastava. D'altronde, il nome di Swann, che conoscevo da tanto tempo, era adesso per me, come succede a certi afasici per le parole più comuni, un nome nuovo. Era sempre presente nel mio pensiero, eppure il mio pensiero non riusciva ad abituarcisi. Lo scomponevo, lo compitavo, la sua ortografia era per me una sorpresa. E cessando di essermi familiare, aveva cessato in pari tempo di apparirmi innocente. Le gioie che provavo nel sentirlo pronunciare le credevo tanto colpevoli che mi pareva che gli altri potessero indovinare il mio pensiero e cambiassero discorso quando cercavo di portarlo in quella direzione. Ripiegavo sugli argomenti che riguardassero ancora Gilbert, ripetevo all'infinito le stesse parole, e sebbene sapessi che erano soltanto parole, parole pronunciate lontano da lei, che lei non sentiva, parole senza valore, che ripetevano la realtà senza poterla modificare, ero pur sempre convinto che a forza di maneggiare, di rimestare così tutto quanto si riferiva a Gilbert, forse ne avrei tratto qualcosa di buono. Ripetevo ai miei genitori che Gilbert era molto affezionata alla sua istitutrice, come se quella frase, enunciata per la 100ª volta, potesse avere finalmente l'effetto di far comparire a un tratto Gilbert, venuta a vivere per sempre con noi. Riprendevo l'elogio dell'anziana signora che leggeva i Débats. Avevo insinuato ai miei che fosse un'ambasciatrice o forse un'altezza reale. E continuavo a celebrarne la bellezza, la magnificenza, la nobiltà, fino al giorno in cui dissi che, stando al nome pronunciato da Gilbert, doveva chiamarsi Madame Blatin. «Ah, ma ho capito chi è!» esclamò mia madre, mentre io mi sentivo arrossire di vergogna. «In guardia, in guardia!» come avrebbe detto il tuo povero nonno. «E la trovi bella? Ma è orribile, lo è sempre stata!» «È la vedova di un ufficiale giudiziario, tu non puoi ricordare, eri piccolo, i maneggi che facevo per evitarla alla lezione di ginnastica, senza nemmeno conoscermi, voleva venire a parlarmi col pretesto di dirmi che eri troppo bello per essere un maschio. Ha sempre avuto la smania di conoscere gente e deve proprio essere una specie di pazza, come ho sempre pensato, se davvero conosce Madame Swann». Perché, anche se era di un ambiente molto modesto, almeno che io sappia, non c'è mai stato niente da dire sul suo conto. Ma a tutti i costi si sentiva in dovere di farsi delle amicizie. È orribile, spaventosamente volgare e, per di più, piena di boria. Quanto a Swan, nel tentativo di somigliargli, passavo tutto il tempo a tavola a tirarmi il naso e a strofinarmi gli occhi. Mio padre diceva: «Questo ragazzo è un idiota, diventerà un mostro». Soprattutto avrei voluto essere calvo come Swan. Mi sembrava un essere così straordinario che consideravo prodigioso il fatto che persone che io frequentavo lo conoscessero a loro volta e che in una giornata qualunque potesse capitare di incontrarlo. E una volta mia madre, mentre ci stava raccontando, come ogni sera a cena, gli acquisti che aveva fatto nel pomeriggio, dicendo come niente fosse: «A proposito, indovinate che ho incontrato a Trois Cartier, nel reparto ombrelli. Swan!» Fece sbocciare in mezzo al suo racconto, per me insignificante, un fiore misterioso. Che malinconica voluttà venire a sapere che quel pomeriggio, stagliandosi tra la folla con la sua figura sovrannaturale, Swan era andato a comprare un ombrello. Nella moltitudine degli avvenimenti grandi e piccoli, tutti ugualmente privi di interesse, quello destava in me le stesse particolari vibrazioni che scuotevano perennemente il mio amore per Gilbert. Mio padre diceva che non mi interessavo a nulla, perché non prestavo attenzione a quando si parlava delle possibili conseguenze politiche della visita di Re Theodose, ospite in quel momento della Francia e suo presunto alleato. Ma quanta voglia avevo in compenso di sapere se Swan indossava il suo cappotto con la pellegrina. «Vi siete salutati?» domandai. «Ma naturale», rispose mia madre, dando come sempre l'impressione di temere che se avesse confessato che i nostri rapporti con Swan si erano raffreddati, qualcuno avrebbe tentato di riconciliarli più di quanto lei non si augurasse, a causa di Madame Swan, che non voleva conoscere. «È venuto lui a salutarmi, io non l'avevo visto». «Ma allora non siete in rotta?» «In rotta? Ma cosa ti viene in mente?» replicò vivacemente, come se avesse attentato alla finzione dei suoi buoni rapporti con Swan e cercato di favorire un riavvicinamento. «Potrebbe essere risentito, non l'hai più invitato?» «Non si è obbligati a invitare tutti. Lui mi invita, forse? E poi non conosco sua moglie». «Ma con Bré veniva». «E con questo? Veniva a Combré, ma a Parigi ha altre cose da fare, e io anche. Ma ti assicuro che non avevamo l'aria di due persone che hanno litigato. Ci siamo intrattenuti un momento perché tardavano a consegnargli il suo pacco. Mi ha chiesto tue notizie, mi ha detto che giochi con sua figlia», aggiunse mia madre, facendomi trasalire per il prodigio di esistere nella mente di Swan e più ancora di esistere in maniera abbastanza completa da sapere, quando tremavo d'amore davanti a lui agli Champs-Élysées, quale fosse il mio nome e chi fosse mia madre, e poter amalgamare intorno alla mia qualità di compagno di sua figlia alcune informazioni sui miei nonni, la loro famiglia, il luogo dove abitavamo, certe particolarità della nostra vita di un tempo, forse addirittura a me sconosciute. Ma mia madre non pareva aver trovato un incanto particolare in quel reparto dei Trois Cartier, dove lei aveva rappresentato per Swan, nel momento in cui l'aveva vista, una persona definita con la quale aveva dei ricordi in comune che avevano motivato in lui il gesto di avvicinarsi e l'atto di salutarla. Del resto, né lei né mio padre sembravano trovare, parlando dei nonni di Swan, della qualifica di agente di cambio onorario, un piacere superiore a qualsiasi altro. La mia immaginazione aveva isolato e consacrato nella Parigi sociale una certa famiglia, come aveva fatto nella Parigi di pietra per una certa casa di cui aveva scolpito la decorazione sopra la porta principale e impreziosito le finestre. Ma quelle decorazioni ero io solo a vederle. Così come mio padre e mia madre trovavano la casa dove abitava Swan simile ad altre case costruite nella stessa epoca nel quartiere del Bois, allo stesso modo la famiglia di Swan pareva loro dello stesso tipo di molte altre famiglie di agenti di cambio. La giudicavano più o meno favorevolmente, secondo il grado con cui aveva partecipato a meriti comuni al resto dell'universo, e non le trovavano niente di unico. Al contrario, ciò che vi apprezzavano lo riscontravano a uno stesso grado o anche più elevato altrove. Così, dopo aver detto che la casa si trovava in una bella posizione, parlavano di un'altra che era in una posizione ancor più bella, ma che non aveva niente a che vedere con Gilbert, oppure di finanzieri di un rango superiore al suo nonno. E se per un momento mi avevano dato l'impressione di essere del mio stesso parere, era per un equivoco che non tardava a dissolversi. Ma per poter percepire in tutto ciò che circondava Gilbert una qualità ignota, analoga nel mondo delle emozioni a ciò che può essere nel mondo dei colori l'infrarosso, i miei genitori erano sprovvisti di quel senso supplementare e momentaneo di cui mi aveva dotato l'amore. I giorni in cui Gilbert mi aveva anticipato che non sarebbe venuta agli Champs-Élysées, cercavo di fare delle passeggiate che mi avvicinassero un poco a lei. A volte portavo Françoise in pellegrinaggio davanti alla casa dove abitavano gli Swann. Le facevo ripetere all'infinito quel che aveva saputo dall'istitutrice sul conto di Madame Swann. Pare che creda molto in certe medaglie, che non si metta mai in viaggio se ha sentito la civetta, o una specie di tic-tac d'orologio nel muro, o visto un gatto a mezzanotte, o se il legno di un mobile ha scricchiolato. Ah, è una persona molto credente. Ero così innamorato di Gilbert che se per strada incontravo il loro vecchio maggiordomo che portava a spasso il cane, ero costretto a fermarmi per l'emozione e fissavo sui suoi basettoni bianchi degli sguardi pieni di passione. Françoise mi diceva: «Che cosa avete?» Poi proseguivamo il cammino fino al loro portone, dove un portiere, diverso da tutti gli altri e impregnato fin nei galloni della sua livrea, dello stesso doloroso incanto che avevo colto nel nome di Gilbert, aveva l'aria di sapere che era uno di quelli a cui un'indegnità originaria impediva per sempre di penetrare nella vita misteriosa che lui era incaricato di custodire, e sulla quale le finestre del piano rialzato sembravano consapevoli di essere chiuse, assai meno somiglianti, nel nobile panneggio delle loro tende di mussola, a una qualsiasi altra finestra che agli sguardi di Gilbert. Altre volte andavamo sui boulevard e mi appostavo all'inizio della Rue du Faux. Mi avevano detto che spesso vi si poteva vedere Swann mentre si recava dal dentista. E la mia fantasia differenziava a tal punto il padre di Gilbert dal resto dell'umanità. La sua presenza nel mondo reale vi introduceva una tale meraviglia che ancor prima di arrivare alla Madeleine ero emozionato al pensiero di avvicinarmi a una strada nella quale poteva inopinatamente avverarsi l'apparizione soprannaturale. Ma più spesso, quando non dovevo vedere Gilbert, avendo saputo che Madame Swann andava quasi ogni giorno a passeggiare nel viale delle acacie, intorno al grande lago, e nel viale della Reine Marguerite, guidavo Françoise verso il Bois de Boulogne. Esso era per me come quei giardini zoologici dove si vedono riuniti flore diverse e paesaggi opposti, dove al di là di una collina si trova una grotta, un prato, delle rocce, un fiume, un fossato, una collina, una palude, ma si sa che sono lì soltanto per offrire ai sollazzi dell'ippopotamo, delle zebre, dei coccodrilli, dei conigli russi, degli orsi e dell'airone, un ambiente appropriato o una cornice pittoresca. Quanto al bois, ugualmente complesso, che riunisce piccoli mondi diversi e chiusi, facendo seguire una tenuta fitta d'alberi rossi di querce americane, come una coltivazione agricola in Virginia, a una betaia in riva al lago o a una selva dalla quale spunta all'improvviso, nella sua morbida pelliccia, con i suoi begli occhi ferini, una rapida passeggiatrice, era il giardino delle donne. E come il viale dei mirti nell'Eneide, folto per loro di alberi di una sola essenza, il viale delle acace era frequentato dalle bellezze celebri. Come di lontano la cima dello scoglio da cui si tuffa nell'acqua esalta di gioia i bambini che vanno a vedere Lotaria, così molto prima di giungere al viale delle acace, il loro profumo, spandendosi all'intorno, faceva presagire la vicinanza e la singolarità di una possente e molle individualità vegetale, E quando mi avvicinavo, la cima intravista delle loro fronde leggere e leziose, di un'eleganza facile, di un taglio civettuolo e di un tessuto delicato, su cui s'erano abbattuti centinaia di fiori come colonie alate e vibratili di parassiti preziosi, e infine persino il loro nome femminile, ozioso e dolce, mi facevano battere il cuore, ma di un desiderio mondano, come quei valzer che ormai ci evocano soltanto il nome delle belle invitate che il maggiordomo annuncia all'ingresso di un ballo. Mi avevano detto che avrei visto nel viale certe signore eleganti che, pur non essendo tutte sposate, venivano citate abitualmente accanto a Madame Swann, ma più spesso con il loro nome di battaglia. Il nome nuovo, quando ne avevano uno, non era che una sorta di incognito che quanti volevano parlare di loro avevano cura di omettere per farsi capire. Pensando che il bello, nell'ordine dell'eleganza femminile, fosse retto da leggi occulte, alla cui conoscenza erano state iniziate e che avevano il potere di attuare, io accettavo in anticipo come una rivelazione l'apparizione delle loro toilette, delle loro carrozze, dei mille particolari in cui riponevo la mia fede, come un'anima segreta che conferiva la coesione di un capolavoro a quell'insieme effimero e mutevole. Ma era Madame Swann che volevo vedere e ne attendevo il passaggio, emozionato come se fosse stata Gilberte, i cui genitori, impregnati del suo fascino, come tutto ciò che la circondava, suscitavano in me altrettanto amore che lei stessa, anzi un turbamento più doloroso, perché il loro punto di contatto con lei era quella parte intima della sua vita che mi era proibita. E infine, dato che ben presto venni a sapere, come si vedrà, che non avevano piacere che io giocassi con lei, quel sentimento di venerazione che noi tributiamo sempre a coloro che esercitano senza freno il potere di farci del male. Assegnavo il primo posto alla semplicità. Nella gerarchia dei meriti estetici e delle grandezze mondane, quando scorgevo Madame Swann a piedi, con una polacca di panno, in capo un berrettino rigido e senza tesa, ingentilito da un'ala di lofoforo, un bouquet di violette sul corpetto, attraversare frettolosa il viale delle acace come se fosse stata soltanto la via più breve per tornare a casa e rispondere con un ammicco ai signori in carrozza che, riconoscendo da lontano la sua figura, la salutavano e si dicevano che nessuno era così chic. Ma in luogo della semplicità è il fasto che io ponevo al più alto rango se, dopo aver costretto Françoise, la quale non ne poteva più e diceva che non sentiva più le gambe, a camminare su e giù per un'ora, vedevo infine allo sbocco del viale che viene dalla Porte Dauphine, immagine per me di un prestigio regale, di un ingresso sovrano, del quale nessuna autentica regina mi ha potuto dare in seguito l'impressione, giacché avevo del loro potere una nozione meno vaga e più sperimentale, portata a volo da due focosi destrieri, esili e stilizzati, come se ne vedono nei disegni di Constantin Guy, con un enorme cocchiere a cassetta impellicciato come un cosacco, a fianco di un piccolo groom che ricordava il tigre del Fou Baudenord, vedevo, o meglio sentivo, la sua forma imprimersi nel mio cuore come una ferita netta e spossante, un'impareggiabile carrozza Victoria di linea un po' alta e che nel suo lusso ultimo grido lasciava trasparire qualche allusione alle forme antiche, sul fondo della quale riposava con abbandono Madame Swann, dai capelli ora biondi con una sola ciocca grigia, cinti da una sottile banda di fiori per lo più violette, da cui ricadevano lunghi veli, con in mano un ombrellino color malva, sulle labbra un ambiguo sorriso dove io non vedevo che la benevolenza di una maestà e dove c'era soprattutto la provocazione della cocotte e che lei lasciava posare dolcemente sulle persone che la salutavano. Quel sorriso diceva in realtà ad alcuni: «Mi ricordo molto bene, è stato delizioso». Ad altri Oh, come mi sarebbe piaciuto, che sfortuna! Ad altri, ma se volete, seguo ancora un momento la fila e appena posso, taglio. Quando passavano degli sconosciuti, lasciavo ugualmente aleggiare sulle labbra un sorriso ozioso, come rivolto all'attesa o al ricordo di un amico, e che faceva dire «com'è bella!» E per certi uomini soltanto aveva un sorriso acido, forzato, timido e freddo che significava «sì, carogna, lo so che avete la lingua di una vipera, che non potete fare a meno di parlare. Mi occupo forse di voi, io?» Coquelin passava conversando in mezzo agli amici che lo ascoltavano e faceva con la mano un largo saluto teatrale a delle persone in carrozza. Ma io non pensavo che a Madame Swann, e fingevo di non averla vista perché sapevo che, giunta all'altezza del tiro pigeon, avrebbe detto al cocchiere di uscire dalla fila e di fermarsi per poter discendere a piedi lungo il viale. E i giorni in cui mi sentivo il coraggio di passarle accanto, trascinavo Françoise in quella direzione. A un certo punto, infatti, nel viale dei pedoni, scorgevo Madame Swann venire verso di noi, lasciando spandere dietro di sé il lungo strascico dell'abito color malva, vestita come il popolo immagina le regine, di stoffe e ricchi ornamenti che le altre donne non portavano, abbassando a volte lo sguardo sul manico dell'ombrello, prestando scarsa attenzione ai passanti, come se la sua maggiore occupazione e il suo scopo consistessero nel fare un po' di moto, senza pensare che la gente la vedeva e che tutte le teste erano girate verso di lei. A volte però, quando si volgeva per richiamare il suo levriero, lanciava un impercettibile sguardo circolare all'intorno.